quieres, que si roto lava fra le labbra del passato, che un po' per volta lo hanno prosciugato. E cosa ne sai tu della mia vecchia bicicletta? Città era ancora piccola, troppo piccola, piccola di così. Cosa ne sai tu delle mie grida di silenzio? Saperlo accontentare, nel senso del bisogno che ho d'amare, nel senso del bisogno che ho d'amare, nel senso del bisogno che ho d'amare. Cosa ne sai tu di ombre appese alle bugie, di donne di incertezze tutte mie, fuggite verso un senso senza senso, ed ogni tanto sono qui che ci ripenso. E cosa ne sai di ombre appese alle bugie, donne di incertezze tutte mie, fuggite verso un senso senza senso, ed ogni tanto sono qui che ci ripenso. E cosa ne sai di me, di come vedo il mondo? Nel senso del bisogno che ho d'amare.